Hai lavorato la settimana intera. Adesso è l'ora di chiudere bottega e andare via. E spruzzare la tua sera di allegria. Scherzare, scherzare. Ballare, ballare. Giocare, giocare. Cantare, cantare. Molla tutto, ma non vedi come sei ridotto. Dammi retta, vinci un terno al lotto. Se ti fiderai di me. Proprio tutto, tutto, e divertiti con me.